La drammaturgia delle varie cose mancava. Mancava un po' questo. L'inizio. Prima chiesa, io avrei continuato per altre due ore, mi diverto troppo. Perché mi sono anche tolta un'unghia. Ah, mi sa che tu hai suonato, sì. Cioè, nel senso che il topolino. Ho perso la. Sì, stavo facendo. Eravamo in quattro. Sì. No, all'inizio mi sono spaventato proprio. Tutto questo rumore, io ero proprio pronto per fare il topolino. Esatto. Ok. No, poi ho fatto un po' di scelte perché immaginavo che a un certo punto scendiamo a qualche spazio. Non potevo immaginare quel spazio. Stavo preparando un po' per quel spazio. Sì, alla fine c'erano un po' di onde. Sì, un paio di onde. No? Ci sono state un paio di onde. Sì. Non era tutto. No. No, beh, siete rimasti con sì, Silvia da sola. Sì. Un po' di. Sì, c'è stato un momento di acustico. Sì, era. E poi si è andato un po' di radando. Un paio di scene solo acustiche, cioè vabbè acustici nel senso strumentali. Ok, cosa vogliamo fare? Vogliamo provare una riedizione di uno dei gruppi di prima o proviamo quello che volete voi? Per quanto tempo avrebbe senso oppure abbiamo mezz'ora, 35 minuti di tempo, sì, è mezz'ora. No, più o meno come siamo messi con l'Italia? Boh, vabbè. In realtà possiamo fare quanto vogliamo, però più che altro magari andare oltre 6:30 mi sembra. Facciamo rifacciamo il primo trio alla tua idea iniziale. Sì, rifacciamo il primo trio, quindi Giacomo, Silvia, Danilo. E niente, teniamo un po' presente che cosa ci siamo detti. Tutto qua, cioè nel senso di ripetere le stesse formazioni è quello ipotetico di fare tesoro. Di stesse formazioni, ma con quello che volete voi. E anche liberi di fare la stessa identica cosa, però lì. Adesso sono scuola civica. Quindi zero riscaldamento. Esatto. Il comune non ce lo fa. Così si fa. Se li affianco, mettete sul muro. Sta cercando. Iniziale. Psicologica cortissima, non so se sì. Probabilmente era cortissima. Cortissima. Però vabbè, uomini di poche parole. Questo non lo so. Però forse in qualche modo il materiale era si esauriva lì, insomma, sì. E quindi forse è inutile. Ma anche perché non abbiamo, avuto, non abbiamo avuto dubbi sulla, sì, sì, infatti, sulla chiusura. Sì. No, no, infatti, veniva naturale, sì. Molto più compatta dell'altra, insomma, su quest'idea di questi piccoli riti, delle tecture, delle pazzesche. Sì, sì, sì. In qualche modo più contrappuntistica, nel senso di... Non era sempre così limpido che se guidando uno guida, guida uno o guida l'altro, sì, sì, sì. Molto... In questo senso, sì. È molto evidente che hai proprio il contrabbasso, più o meno in tutti i pezzi ho notato questa costruzione di periodi più o meno brevi che poi si ripetono, si mantengono come dire una sorta di cellula quasi ritmica a volte, come nel primo brano, adesso più diciamo di colore, e poi vanno a ispezionare quelle... hai fatto una cosa molto simile a quella che hai fatto prima, in certo qual modo. Sì, perché è un po' un mio modo di lavorare, quello di... In questo senso, anche di specialmente quando suono con altri, cioè magari buttare una cosa, vediamo cosa succede, sentiamo come reagiscono gli altri e poi rientro e cerco di capire, mantenendo la logica del punto di partenza, come riesco a creare variazioni o anche no, come riesco a variarla quell'idea, a svilupparla o anche ad asciugarla. Sì, però sì, lavoro molto in questo senso. Può anche capitare il contrario, che piglio una cosa e sto lì con la logorrea, insomma, però questo è già più raro. Sì. Mi stupiva proprio che ho sentito dei segmenti di suono, proprio una cosa che inizia, finisce, poi rinizia, rifinisce, tutto per due brani forse. Si riferisci al modo in cui sta suonando Adriano, sì, oggi. Sì, il modo in cui sta suonando Adriano, sì. Ho notato questa cosa e mi ha stupito un po', perché l'ho trovata molto simile a quando ha suonato l'archetto su tutto il corpo dello strumento, e anche lì c'erano dei segmenti che si interrompevano e poi iniziava una ricerca timbrica, sempre però racchiusa all'interno di un tempo ben delimitato, figo. Un po' cerco di lavorare così. Te l'ho detto, molto è legato al fatto di cercare di capire come quello che sto facendo io viene percepito dagli altri, cioè in tempo reale, quelli che suono con me, dico, e come io di converso riesco a capire quello che fanno gli altri rispetto a... In questo caso che il punto di partenza lo dava Travis, insomma. Però anche lì, per dire, se avesse continuato con quello, con questi suoni, meno male che poi hai fatto un suono lungo, quindi lì era più semplice, era molto analogico quel suono registrato, insomma, quindi era più difficile da... Cioè forse tu col contrabbasso potevi starci un pochino di più appresso. Sì, sì, sì, sì. Per me non era in realtà tanto difficile, però probabilmente... Sì, sì, per il tuo coso, ma è domanda più... Sì. Prettamente tecnica, su una cosa, un dettaglio che incuriosiva. Il microfono sulla cassetta, te... Che piglia? Stai prendendo il motorino. Il motorino. Quindi la frequenza era quello... Sì. Era... Okay. Quella... Non mi ricordo più esattamente. esattamente no, quel pitch preciso, insomma. Sì. Ok. Era 4:15 però, eh? Era un po' barocco. E per tecnologia obsoleta. Sarebbe interessante magari chiudere, se dobbiamo chiudere le 6:30, visto che sono le 6:15. Chiudere come abbiamo iniziato, magari sfruttiamo tutto il tempo. Il tema è quello della Barilla, dove c'è Barilla c'è casa, l'abbiamo scelto. 10-12 minuti.